Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, partiamo con due interventi raccolti a Bruxelles. Il primo riguarda l'integrazione fiscale dello spazio europeo. L'interrogativo è quanto vale, quanto può valere per il rilancio dell'economia europea. Una ricerca presentata questa mattina a Bruxelles dal Fondo Monetario, spiegata dall'economista Helge Berger, lo definisce un passaggio indispensabile del percorso di trasformazione del nuovo progetto europeo. So I think we have good news and bad news coming out of this kind of research. Ecco, da questo tipo di ricerca, dice Berger, abbiamo buone e cattive notizie. Ciò che riteniamo è che il debito possa essere ridotto, in particolare nelle economie avanzate, anche quando i tempi sono difficili. Questo significa che in una circostanza in cui la crescita si abbassa e i tassi di interessi alti, si può affrontare comunque la questione. La brutta notizia dice che la situazione del passato ci ha dimostrato che, nonostante questa possibilità, le economie più lente, insomma, fanno una grande fatica a assumere le posizioni fiscali, le iniziative di natura fiscale che servono appunto ad affrontare la questione. E sul sud, sull'Europa che fa i conti con la recessione e in particolare il ruolo del sud, è intervenuto anche Guntram Wolf, direttore del Bruegel Institute, un think tank appunto di Bruxelles, che dice che ritiene che in particolare al sud dell'Europa non basteranno i prossimi 20 anni per chiudere il gap con le economie più forti dell'Unione. Guntram Wolf dice: non è che tutti saranno nel settore dell'IT, non ci potranno avere più di alcuni centri di Silicon Valley europea, e dunque questo settore sarà quello che guiderà la ripresa e la crescita. Ecco, la difficoltà di affrontare le riforme strutturali di alcuni paesi del sud, Guntram Wolf non lo cita, ma è ovvio il pensiero anche all'Italia, rappresentano il principale problema di questa fase. Dunque, il ruolo della tecnologia sarà fondamentale, in particolare nell'Europa del sud viene ampiamente sottoutilizzato e la sfida si giocherà lì, e dunque questa preoccupazione. Temo, dice appunto Guntram Wolf, che i prossimi 20 anni non basteranno a chiudere il gap. E oggi parliamo anche di ricerca, esperimenti, sperimentazioni, dimostrazioni scientifiche. Questa sera in 300 città europee per la notte dei ricercatori, promossa dalla Commissione. Da Atene a Düsseldorf, passando per Milano, ovviamente università, enti scientifici promuoveranno l'importanza della scienza in un modo che vuole essere ludico per avvicinarlo ai più giovani. Tra questi c'è anche il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Valentina Innocente ha chiesto al direttore dei servizi educativi, Maria Santudacchi, il ruolo che iniziative del genere svolgono in ambito europeo. Siamo europei ancora di più questa notte e celebriamo in modo comune la ricerca. Il museo partecipa a progetti all'interno di Excite. Excite è la rete europea dei musei scientifici. Partecipa anche a progetti che sono finanziati dall'Unione Europea, e in questi il museo è molto attivo. Posso chiederle degli esempi di questi progetti? Il progetto Nano to Touch, che ha coinvolto una ventina di istituzioni fra università e musei scientifici in Europa per la diffusione delle nanotecnologie. L'aspetto innovativo è che la comunicazione delle nanotecnologie e l'educazione scientifica, se vuole, sono stati svolti attraverso la costruzione di pezzi di laboratori di ricerca veri all'interno dei musei. Quindi i musei hanno accolto i ricercatori. Bene, con questo è tutto per Europa 24 questa settimana. Torno naturalmente lunedì a partire dalle 13:15 circa. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.